if this was my chance. You came there with my best friend Jim, and here I am trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Sweet confusion under the moonlight. It's such a night. Buongiorno America. In questa seconda parte riascoltiamo l'intervista al giornalista Vittorio Zucconi, che presenta il suo ultimo libro Il caratteraccio, come non si diventa italiani, edito da Mondadori. Continuiamo la nostra galleria di incontri con giornalisti inviati, corrispondenti italiani che hanno in questi giorni pubblicato, in queste settimane mandato in libreria un loro saggio. Dopo Rampini, Cavalera, Remondino, tocca a Vittorio Zucconi, che per Mondadori presenta un libro dal titolo curioso, adesso indagheremo meglio, si chiama Il caratteraccio, come non si diventa italiani, ma nonostante tutto poi è un libro che ha delle attinenze, anzi dei profondi legami con l'America, su cui nella maggior parte dei casi professionalmente Zucconi agisce, perché parte da una missione semi impossibile affidata a Zucconi da un prestigioso, uno di quei misteriosi prestigiosi college del New England. Qui siamo nel Vermont, il college si chiama Middlebury, e lo chiamano per un seminario. Non, avete presente quelle università, no, in cui, non so, Donna Tartt, Bret Easton Ellis ambientano i loro romanzi di formazione? Di solito lì c'è la neve, invece qua siamo d'estate, da quello che abbiamo capito. Lo chiamano per fare un seminario, un ristretto gruppo di studenti americani sul, se abbiamo capito bene, sul senso della Italia. Perché poi, Vittorio, buongiorno, buon pomeriggio. Qual era proprio il, per questo mi sfugge un po' dalla lettura del libro, il mandato esatto cos'era? Presentare l'America d'oggi agli studenti? No, il mandato era presentare più possibile l'Italia d'oggi, scusa, l'Italia d'oggi. Sì, certo. Beh, conosco un po' anche l'America. Certo. L'Italia di oggi è cercare di dare un po' di storia contemporanea, di cronaca, diciamo pure una parolaccia, di sociologia, certo, a questi studenti che sono italianisti formidabili, sanno tutto di Boccaccio, Petrarca, tutto in italiano, perché questo viene specificato da Zucconi, con questi studenti si parla in italiano, non ci sono santi, c'è un patto d'onore, un patto d'onore, guai chi sgarra. E a noi, diciamo, non accademici, viene chiesto di dire a questi ragazzi un po' cos'è anche questo paese la cui lingua studiano con tanta passione, e lì si è spalancato il dramma, racconto in questo libro, di trovarsi a dover raccontare un'Italia che, insomma, rovinava questa immagine di donne angelicate, di grandi poeti, di poesie, di cenacoli, di questo grande e maledetto rinascimento che ci opprime e ci costringe a dei paragoni impossibili sempre, naturalmente, e dovevo raccontare da cronista, da giornalista, da osservatore, quello che è accaduto nell'Italia negli ultimi anni, lasciando questi ragazzi possibilmente così, che non scappassero via dicendo sì, ma se questa è l'Italia allora vado a studiare la Mongolia piuttosto. Ecco, perché Vittorio, in pratica si è saltato a pie pari lo steccato del politicamente corretto e Zucconi ha deciso di andare a raccontare a questi studenti, giovani studenti americani ancora animati di entusiasmo, un po' quella che giornalisticamente parlando è l'Italia di questi mesi, di questi anni, l'Italia contraddistinta come dice nell'introduzione, dalle tre S più una S ancora più grossa, no? Sesso, soldi, sangue e scandali soprattutto. E scandali, sì. E poi cercare però di fare un passo avanti, perché quando io ho raccontato un anno la storia degli scandali italiani del dopoguerra, dalle piccole cose, la famosa scena dell'allora giovane deputato Oscar Luigi Scalfaro che prende a schiaffi una signora perché è vestita in maniera troppo così, diciamo, immodesta, e ne nacque un caso famosissimo, fino alle ultime cose, naturalmente, alle Vallettopoli, a chiamiamole come volete. E poi si è posta la domanda, dice, ma perché gli italiani sono così? E allora lì ho cercato di fare un po' della storia di questi eventi che negli ultimi 150 anni dalla cosiddetta Unità d'Italia ci hanno reso quello che siamo, cioè un popolo perennemente arrabbiato, di cattivo umore e soprattutto sempre riportato a una condizione naturale che è quella di essere gli uni contro gli altri, il maledetto guelfismo, pipillenismo, io sono anti questo, anti berlusconiano, antifascista, anticomunista, anti tutto, cioè un popolo contro che ancora non riesce a diventare un popolo per qualcosa. Perché Vittorio, provando a fare quindi una sociologia di comunicazione, di presentazione, di descrizione di uno scenario complicato come l'Italia di oggi, a tuo parere alla fine bisogna affondare le mani nel trash. Tu a un certo punto parli di un'Italia Hollywood, no? Di forse anche per trovare delle chiavi di comunicazione e di spiegazione con gli studenti che immagino non abbiano immediatamente, no, il senso, il tocco di quanto vai raccontando. Guarda, storia e geografia sono proprio le due, sembra quelle favole, no? Le due figliastre chiuse in cantina nella storia dell'educazione americana, dell'istruzione americana, non gliela insegnano, oddio non so in Italia quanto gliela insegnano, ma insomma certamente non in America. Questi ragazzi sono digiuni di tutto, ragazzi poi sono tutti in realtà masterandi e dottorandi, quindi sono corsi post laurea, io faccio dei piccoli test, faccio vedere la foto di Mussolini per esempio non vestito da duce ma vestito ancora da politico con lo Stifelius e nessuno lo conosce, faccio vedere De Gasperi, faccio vedere Togliatti, quindi... Però uno l'hanno riconosciuto tutti i racconti nel libro, vero? Sì, uno l'hanno riconosciuto tutti. Sì. Mediaticamente lui funziona, arriva. E questi poverini poi, sai, alla fine, racconto nel libro, io mi sento un verme, perché mi sento come lo zio scemo che dice ai bambini che non c'è Babbo Natale, che non, o l'amico che la sera prima del matrimonio spiega alla sposa che si guarda il tuo futuro marito, in realtà l'abbiamo visto in giro, è un pessimo figuro, non ti fidare. E loro avevano questa immagine veramente idealistica dell'Italia, i sei mesi a Firenze, la bellezza di Genova, di andare a Venezia a sentire i gondolieri che cantano Sole mio, Funiculi funiculà, che sono i canti popolari veneti più noti naturalmente, secondo i turisti americani. E io gli ho dovuto dire, guardate che l'Italia è anche un'altra cosa. È un'altra cosa, ma non perché noi siamo buoni o cattivi, perché questi eventi della storia che io cito, ne cito 10, fanno sì che ogni volta che noi sembriamo arrivati al punto di diventare un popolo, di essere quei famosi italiani che Massimo D'Azeglio sognava dover fare, accade qualcosa che bam, ci riporta alla condizione del essere qualcuno contro. Io odio te, tu odi me e così andiamo avanti. Ecco Vittorio, ma restando un attimo all'argomento, poi noi ci occupiamo essenzialmente dell'America nel programma, quindi un argomento che ci sta particolarmente a cuore dell'idea che oggi alla vigilia del 2010 l'America si è rifatta dell'Italia. Pensiamo per esempio a questo caso, no, di Amanda Knox e al tipo di approccio, di racconto e anche forse di banalizzazione un po' volgare che mi sembra i media americani hanno fatto al riguardo, no? Poi alla fine ricorrendo a una descrizione, anche a un sospetto nei confronti dell'Italia che affonda un po' negli stereotipi forse più consumati e anche un po' più fuori luogo. Ecco, come funziona? Che cosa stiamo diventando per gli americani, soprattutto a livello di grandi media, di grandi casi, di grandi storie? Stiamo diventando purtroppo un paese completamente schizofrenico, almeno nella loro visione, o bipolare, come va detto adesso in certo, maniera più adesso corretta. Si dice bipolare, sì. Ecco, si dice bipolare. Cioè un paese da una parte dove si è inventata non la dolce vita, che è un'espressione banale, corrotta, oramai non funziona più, ma il paese della dolcezza del vivere, dove tutti siamo buoni, tutti siamo belli, siamo vestiti benissimo, ci vogliamo bene. E poi un paese che è incapace di uscire da una specie di medioevo della giustizia. Loro si immaginano i piombi, le descrizioni del processo di Amanda Knox della giustizia è allucinante, visto che poi viene da un paese dove la giustizia è tutto meno che perfetta, naturalmente. Sì, e di casi Amanda Knox ne hanno una lunga galleria, insomma. Dalle assoluzioni alle esecuzioni di persone, certo, che poi si scopre al 3% erano innocenti, quindi ogni 100 messi a morte 3 erano innocenti. E quindi, cioè, l'Italia è sempre vista con uno strabismo, dicevo prima bipolarismo, insomma, da una parte un luogo meraviglioso di incanto e dall'altro un posto dove niente funziona, l'amministrazione è corrotta, dove la politica è pessima, dove la gente è rissosa. E allora tu devi cercare di ricomporre queste due immagini dicendo: guardate che per usare la vecchia immagine, sì, noi siamo quelli dei pugnali e dei veleni dei Borgia, dei papi corrotti, della politica, però poi alla fine produciamo quelle cose per le quali voi dedicate anni di studio, perché questi ragazzi sono preparatissimi sui Boccacci, Petrarca, molto più di me, del loro insegnante, però poi non sanno nulla della realtà attuale, se non dei luoghi comuni con quel senso, ecco, permettimi di dirlo, di fastidiosa superiorità, certo, giustizie tribali praticamente. Loro si immaginano il processo di Perugia come un villaggio sperduto in qualche terra ancora inesplorata, nella quale alcuni sciamani e stregoni decidono che una povera ragazza americana deve andare in galera per la vita. Ecco, se allora ci pensi, tanto per fare le pulce anche al nostro mestiere, però guardando, avendo visto un po' di corrispondenze fatte da giornalisti, soprattutto televisivi, americani a Perugia, che hanno fatto residenza a Perugia a lungo, alimentavano un po', no, questo atteggiamento. C'era tutto sommato un certo gusto, no, nel raccontare una versione non vera della questione. I giornalisti americani sono prima giornalisti e poi americani, i giornalisti italiani sono prima giornalisti e poi italiani, certo. Noi ci immaginiamo che il giornalista americano sia una, certo, figura anche lì, prima pagina, esatto, loro vanno per il basso ventre come tendiamo ad andare tutti in questo mestiere, e lì ti puoi immaginare, ecco le famose S, sangue, scandalo, sesso, quindi ci si sono buttati. Fanno il lavoro che facciamo noi, purtroppo, perché certe dinamiche del mestiere sono uguali per tutte. Lì c'è una differenza di un senso di superiorità nei nostri confronti che trovo molto fastidioso, però non dimenticare, qui mi chiamo in causa anch'io, come noi molte volte raccontiamo l'America come un paese di cowboys, di gente che gira con in tasca la rivoltella, di massacri, di cose, di ignoranti, quindi chi di stereotipo ferisce, poi spesso di stereotipo ferisce. Allora ringraziamo Vittorio Zucconi, questo suo intervento che completa una serie di conversazioni con quei corrispondenti che poi insomma restano gli interlocutori più frequenti e anche più utili al nostro programma. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Valeria Bernardi a Milano, la mail è buongiornoamerica@radio24.it. Ci sentiamo, state tutti bene.